Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. I think I go. Gigi D'Ag è un suono puro, col suo tamburo stai sicuro. Se volete scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, spaccami le cuffiette. Bonfi. Modo giusto io, ecco ragazzi. Gigio tutto il pomeriggio. Faccio un saluto. Hola, puta. Che stasera venimo a Latina sotto a console con la maglietta dedicata a te. Caso mamma, non è che mica giochiamo. Alessietto, Area 51 e Scoop. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Sveglio o sonno, però buongiorno.

facciamo rumore, urliamo l'amore. Vorrei dedicare Walking on the Sky a tutti i torinesi che il 18 marzo per l'Alcatraz parteciperanno all'operazione Trenino Torino non si siede. No. Di Cher. È il compleanno di Manu del forum gigidagostino.com. Volevo dedicarle Angel, perché è davvero un angelo. Le voglio un mondo di bene. Gabriele. ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Il cammino di Gigi D'Agostino. Poco, molto poco, ma io so poco, ma penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente, l'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. E nella successione dei fenomeni. Tanto, poco, niente, so molto poco, anzi, niente, l'uomo saliente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo saliente, fino. L'uomo fino. E come Aristotile, chiaramente pura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Che ho. In che senso? Adesso Gigi va in onda alle 2, così non litigo più con mio marito per ascoltarlo. Carmela. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni. Alle 2 del pomeriggio suona Gigi. Tempo. Emotiva. Questa sera, sabato 10 marzo 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca 24.000 baci. Latina. Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 3 6 7 6 6 2. Il cammino di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. Volevo salutare Davide, Serena 94. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dormo ancora alla campagna, forse no, e sveglia mi guarda, non so. D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarro. Anni. Il 18 potrei venire ad ascoltarti all'Alcatraz. Matteo. Thank you. sono Gigi D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Andiamo, regà! Simone G. di Albenga. Vorrei mandare un grosso saluto ai miei compagni di squadra del Loanesi Calcio. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Qui si vola a tempo, attraverso le armonie. Fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone, anche solo per cantare. Dolcemente chi mi dia